Anzitutto volevo compiacermi con voi adulti che avete accanto un bimbo, perché vuol dire che state vivendo la vostra vocazione di trasmettere la fede ai vostri bambini. Questo non è compito del prete, anzitutto. Questo avviene in famiglia, esattamente come per la scuola, dove la buona educazione si impara in casa. Poi ci sarà lo specialista che approfondirà, ma le basi sono in casa. Quindi mi rallegro con voi e se posso vi suggerisco, oggi o altre volte, se riusciste con i vostri figli a riprendere qualche cosa della celebrazione della messa o la predica o qualche gesto, sarebbe una cosa veramente buona. E se volete essere aiutati, io sto registrando la mia predica, me la chiedete e ve la mando sul cellulare. È una predica, vi dicevo, che tocca un Vangelo, questo di Luca 17, versetto 7 seguenti, non facile. Perché se uno la guarda da un punto di vista sindacale è totalmente sbagliata. Se uno la guarda da un punto di vista semplicemente umano, anche lì non riesce a raccapezzarsi. Ma sei un po' uno schiavista, no? Tu, Signore, hai un servo che lavora tutto il giorno, torna a casa e gli dici: Ale, fai la seconda giornata in casa, guarda, servimi e poi quando hai finito mangerai anche tu. A parte che, se vogliamo fare una battuta, questo avviene normalmente con le nostre mamme, no? Che vanno al lavoro, tornano a casa e se si permettono di chiedere ai figli: mi dai una mano? Dicono: ah, ma c'ho da studiare. Tua madre invece, che ha fatto la giornata, torna a casa, deve fare ancora tutto. Chiusa la parentesi. Ma l'insegnamento di questo Vangelo è abbastanza semplice. Perché, intanto vi suggerisco una regola che vale sempre per comprendere un brano della Bibbia, tu non devi prendere solo quel particolare. È come se tu guardassi un dipinto con lo zoom, solo su un particolare. Non ti rendi conto di tutta la ricchezza del dipinto. Torna indietro con lo zoom e vedi l'insieme. Se tu vuoi capire la persona di Gesù, non devi badare solo a questo particolare. Vai ad esempio a vedere quando Gesù si inginocchia davanti ai suoi discepoli nell'ultima cena e lava loro i piedi. Non solo farebbe, per così dire, da mangiare, ma ancor di più fa un gesto proprio da schiavo di bassa forza, inginocchiarsi e lavare i piedi. E se guardasse tutto il Vangelo vedrebbe il rapporto straordinario di Gesù con i suoi discepoli. Non vi ho chiamati servi, vi ho chiamato amici, perché tutto quello che il Padre mio compie io ve lo rivelo. Allora, se non è la sottolineatura di una mentalità schiavista, che cosa vuole insegnarci questo Vangelo? Questo Vangelo vuole insegnarci che noi non abbiamo verso Dio, non dobbiamo avere nessuna pretesa. Per la verità non dovremmo averla verso nessuna creatura, nessuna pretesa, eh? Eppure il mondo è pieno di gente che pretende di far lavorare una persona a 2,50 € a raccogliere pomodori o il resto sotto il sole del sud. O il mondo è pieno di partiti. Qualcuno di voi ci è cascato anche dentro, presumo, che hanno preteso che tu obbedissi al partito. Io credo, amici, che nessuno, neanche in casa, abbia il diritto di pretendere dal suo simile, men che meno nella società. C'è la possibilità e il diritto magari di porre delle regole per il ben vivere. Figuriamoci se non abbiamo il diritto di pretendere tra umani, se abbiamo il diritto di pretendere nei confronti di Dio. Eppure, amici, quante volte ci siamo lasciati magari andare ad arrabbiarci contro Dio, a giudicarlo, a fare gli offesi, perché non ci ha ascoltato. Sapeste quante persone vedo, soprattutto ragazze, che mi dicono: non vado più a messa perché Dio mi ha portato via mio papà. Io gli ho chiesto, ho pregato, ho fatto, basta, non vado più. Puoi fare quello che vuoi, cara figlia, sei tu che ci perdi, perdi il Padre nostro che è nei cieli, perdi colui che, mentre la natura ha stroncato tuo padre, la natura, il Padre che è nei cieli lo ha raccolto e l'ha portato con sé. Cari amici, se pretendiamo da Dio, siamo totalmente fuori strada. Noi possiamo con umiltà chiedere al Signore. Questa parabola ci insegna una verità fondamentale: la nostra creaturalità. Noi siamo creature. Fate di fango, fate di terra. Lo diceva bene, avrete notato, la conclusione della prima lettura di Giobbe: nudo uscii dal seno di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Sia benedetto il nome del Signore. Amici, questa è la fede. Questo è riconoscere Dio creatore e noi creature. Ma è duro accettare un Dio così? No, amici, se conoscessimo tutto il disegno di Dio sarebbe bello, perché se tu non hai Dio come padre, chi eleggi come padre e come madre tua? Il mondo? Ricordate questa frase che non ho inventato io, ma che gira: chi non si inginocchia davanti a Dio, si inginocchierà davanti agli uomini.